Wall Street. I viaggi del lupo. Buonasera. Ah, inizi tu stasera. Ogni tanto. Bene, buonasera a tutti. Noi siamo Wolf Trips. Iniziamo con l'ottava puntata di questa terza stagione. Sembra una cosa tipo delle serie. Ottava puntata. Già. Siamo il programma che parla un po' della musica gratuita, delle net label. Poi facciamo un po' di viaggi nella musica, nei generi musicali. Stasera avremo anche un ospite qualcuno un po' particolare. Qualcuno ha scritto su. Sto arrivando. Sarà Sara, immagino, i Bioma Terra, che stasera li presenteremo. Sono i nostri amici, diciamo, di Wolf Trips, ormai storici. Che tornano a trovarci. Sì, sì, ogni tanto tornano. Va bene. Ci sono dei ritorni di fiamma, così. Per adesso ci siamo solo io, Domenico Biancardi e la Cri ai microfoni. Siamo in solitaria. Sì, però mi sa che non tarderanno ad arrivare gli altri, come al solito. Penso anch'io, sai. Come al solito, ritardatari e non. Vabbè, li aspettiamo. Sì, e direi sì. Che ci andiamo ad ascoltare un po' di musica e intanto così almeno aspettiamo magari che arriva anche qualcun altro e andiamo a ascoltare. In teoria dovrebbe essere popolata la radio stasera. Stasera sì, stasera ci aspettiamo tanta gente in radio. Sì. Tra l'altro dovrebbe essere partita la diretta Facebook, ma non ne ho diciamo un ritorno valido. Adesso vado a fare vedere un po' di verifiche. Andiamo a ascoltare il brano che si chiama Para di Minimalismi, che è un brano della etichetta Quiet Bump, che tra l'altro ha rilasciato un nuovo brano poco fa. Intanto ci andiamo un po' a sistemare. Sentiamo. Intanto dura molto poco, quindi dobbiamo prepararci. Sì. Sentiamo. Thank you. Questo era un brano molto bello, tranquillo, proprio da inizio, un po' come piace a me. Sì, molto soft, diciamo. Sì, molto... Così almeno avevo tempo di sistemare le ultime cose. Eh sì, qua stiamo facendo gli ultimi preparativi. Sì, anche perché... In attesa del... Devo dire la verità, ogni volta che arrivi in questo studio c'è sempre qualche news, qualche novità tecnica da sistemare, ma è anche bello così, dai. Poi è anche colleghi e ospiti tardano ad arrivare, quindi qua si fanno attendere, ragazzi. Ma sì, noi li attendiamo volentieri, tanto voglio dire. Questa porta è aperta. La porta è aperta, speriamo che non si apra mentre stiamo parlando, perché sennò li devo bacchettare. Attenzione. Ma io ho un'idea su chi potrebbe fare una roba del genere, ce l'ho. Intanto, di solito è un classico suo. Intanto che aspettiamo che arriva il buon Tony, soprattutto, perché volevo mettere un paio di brani che so che a lui piacciono molto. E il prossimo brano, infatti, è della Dub Temple Records, che è un'altra net label di quelle che produce un po' di musica dub, sempre per restare un po' su questo tema, su questo genere. Ha fatto questo brano che si chiama Ep Kitan Chenge. Che è un genere un po' particolare. Chenge. È un genere un po' particolare, a me non dispiace. È un brano sempre, diciamo, abbastanza tranquillino, nulla di impegnativo. Dai, per iniziare va bene così. Soft. Comunque stavo dicendo, questa sera quindi parleremo di Biomaterra. Abbiamo anche un paio di brani nuovi appena usciti che volevo presentare. E poi volevo fare un po' di approfondimenti anche su che cos'è un po' il concetto di net label in generale. Poi anche, visto che ne stiamo parlando da ormai da 8 tempo. Puntate, non sarebbe male approfondire un po' il concetto. Continuiamo intanto con il brano di Eptikian Chenge. Ma io lo dico così, poi vedremo. Niente, questo qua era un brano un po' particolare, Tony. Ti ho beccato con la cuffia, diciamo. No, per il rotto per la cuffia, volevo dire. Ecco. Ma è rotta, infatti. No, non è rotta, è solo un po' sgretolata. Beh, diciamo che cade a pezzi la cuffia. Sì, vabbè, quella è una delle cuffie più vecchie. Bene, quindi stiamo arrivando pezzo a pezzo. Tanto là ci sono facce. Facce? Che facce ci sono? Girati e la vedi. Sì. Ah, ecco chi è che c'è. Va bene. No, sono gli ospiti di questa sera. Intanto sto cercando ancora di sistemare sto diamine di webcam, ma... Non collabora. Ma no, ma io non mi do per vinto. Adesso pezzo dopo per pezzo ci potete vedremo di sistemare sull'app. Sì, dall'app ci possono sono sentire. Ci possono anche scrivere al 338-222-8983. Sì, infatti direi che possono anche scriverci. Ecco. Male non già fa. Già qualcuno ci sta scrivendo. Già. E Tony, ti introduco la puntata dopo un po' di pezzi. Allora, prima di tutto ti volevo far vedere che adesso mettiamo un brano che dovrebbe ricordarti qualcosa. È quello che sta andando già sotto, non è quello dopo. Che è il brano di Die Eco Project, Smooth Genestar, che era un brano che avevi forse forse non so se era questo il particolare che avevi già condiviso. No, no, mi sembra un altro, mi sembra, comunque. Però il genere è più o meno quello, sì, e sì, sì, non mi dispiace. E poi niente, stavo annunciando che avremo come ospiti il blog Biomaterra, gli chiederemo un po' che cos'è il loro progetto, che ormai è un gemellaggio, mettiamola così, che esce un po' dai nostri canoni, però tutto sommato no, è mia mala natura. Bravissimo. E poi dopo volevo fare un po' di approfondimenti anche su che cos'è, sul mondo delle net label in generale, un po' per vedere che cosa, visto che ne abbiamo parlato spesso, ma poi in soldoni non abbiamo mai detto che cosa sono. In soldoni. In soldoni, in soldoni. Zero. Ma, ecco. In parole povere. In parole povere, parole povere. Va bene. Va bene, dai, andiamo ad ascoltare quindi Smooth Genestar. Thank you. Questo qua era, diciamo, sarebbe stato un pezzo giusto per la tua vecchia rubrica. Visto che la nuova rubrica ancora non, diciamo, è vero, stenta ma lo sai a partire. Che non riesco ancora neanche a fare la sigletta. Cioè, però... No, la sigla dobbiamo farla perché no. Il jingle, chi ha fatto il jingle mi chiede: ma sta sigla? C'è ma ragione, sta sigla? Scusa, come si chiama? Si può? Non mi ricordo, però l'aveva sentito su Instagram. Non mi ricordo. Vabbè, scusa, la cazzata. No, la salutiamo, però non mi ricordo come si chiama. Va bene. Io sono alla disperata ricerca di un accendino. Beh, allora facciamo il calcolo di chi dovrà venire. Allora, deve venire Ego, che sta arrivando. Che bello! Però non fuma. Come no? No, che non fuma. Ma l'altra volta ha fumato con me. No, aveva la cannetta, ma era un'altra cosa. No, ha fumato. Che cosa vuoi? Ha fumato fuori. Poi Katia non verrà, quindi non fuma. Comunque non fuma, quindi non sarebbe venuto lo stesso. Fabio dovrebbe arrivare. Fabio, sì, ma ti scocca prima la sigaretta. No, Fabio 2, la vendetta. Ah, viene anche lui, sì. Comunque sì, dovrebbe arrivare più tardi. Un accendino arriverà sicuramente. Va bene. Uno, vi prego, portatemi un accendino. Lo restituirò a fine puntata. Sì, ok, infatti. Intanto salutiamo Sara e Benedetta che sono arrivate e stanno scombussolando tutto qua, stanno facendo un casino io atomico. Non vedo più niente, questa corre, va, prende. Ciao a tutti. Abbiamo servito, facciamo il book fotografico stasera? No, Anche no, perché diciamo che sono vestito tra virgolette per andare a lavorare dopo, quindi non è che sono proprio... Ah, già, è vero, sì, che stasera sei un po' sportivo. No, diciamo che sono anti-pioggia, ecco, mettiamola così. Visto che il tempo fuori non è molto... È vero. Beh, novembre, ragazzi, un mese alla vigilia di Natale. Un mese, è vero? Oggi è il 23, però. Come 23? Oggi è il 23, allora, Tony. 24. Oggi è il 23. Vabbè, avanti, vigilia, dai. A una certa età arriva, subentra l'Alzheimer, quindi. Alzheimer. Va bene, dai. E intanto che aspettiamo qualcun altro, dai. Ma poi non dovrebbe venire anche Fabio e una nostra, diciamo, seguace assidua. Sì, che è la Sabrina. Talmente seguaci che ci viene qua di persona. Vabbè, intanto allora ascoltiamo il prossimo brano, che non mi ricordo assolutamente di che etichetta è. Sì, eccola qua, ce l'ho segnata qua. Perché vedi, ho fatto un upgrade. Si è allargato. Perché? Perché ci stanno più informazioni, è più facile da scrivere. E facciamo male il braccio. L'altro lo tengo come ricordo. Pezzo da museo, no, appunto, non va, non è che va buttato. No, lo tengo. Lui fa come le smimo con i ragazzini. Ma io lo porterei sempre dietro comunque. Sì, puoi, quanta roba devo portarmi dietro. Vabbè. Andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Southern City Lab. Il brano si chiama Sobrio. No, scusa, l'artista si chiama Sobrio. Quindi non è italiano? Diciamo, sono io che non sono sobrio. No, non è italiano. E il brano si chiama J. Rhodes. No, non è, anche a dispetto del nome, non è italiano. Continuiamo sempre su questo andazzo molto tranquillo. Da prima mezz'ora. Dopo cocktail. Infatti. salutiamo anche uno dei due Fabi, perché sai che noi abbiamo due Fabi. Buonasera. Ciao Fabio, grazie che sei venuto in nostro aiuto, al mio aiuto. Perché ti serviva l'accendino, eh? Sì, poi comunichiamo che lei partita la diretta Facebook e lui parla a braccio, nel senso. Allora, metto le cuffie, vedete le cuffie, ma non sono attaccate, come ben vedete. Lavoro al vecchio stile, quando non avevi i soldi per le cuffie parlavi al microfono. È vero. Va bene, va bene. E questo è un bel brano, dai, non era male. A me no, piaceva parecchio. Era molto, molto. Il problema è che, caspita, stasera sono un po' impiccato con la tecnologia. No, con la tecnologia, perché ho delle informazioni da una parte, delle altre informazioni dall'altra, e quindi ogni brano è un mero casino. Credo che come spia non faresti molta strada. Vabbè. Tanto, io devo fare un reclamo, perché qua ci sono troppi obiettivi in giro. Dipende che obiettivo vuoi raggiungere. Non questi, no, nessuno dei due. Ma anche questi fanno parte di quello. Va bene, io direi che siamo, non siamo neanche ancora al completo stasera, cioè, no, stasera è vero, c'è vero, un vero. Delirio. Ma chi è che manca? Manca un po' di gente ancora, vabbè. Ma non so se vengono, adesso chiediamo anche. Siamo per strada però. No, dovrebbero arrivare. Abbiamo due ore, no? Due. Sì, credo due. Tra l'altro ormai fremono i bioma terra, no, le bioma terra, perché non c'è nessun. Oggi sono tutte al femminile. Infatti. Scusate una cosa, ma non manca un soggetto maschile che l'anno scorso vedevo. E manca. Ti lamenti, adesso che ci sono due donne ti lamenti. No, io non mi lamento mai quando sono le donne, ragazzi. Sapete che io apprezzo il mondo femminile. Chi è il soggetto maschile? C'è un ragazzo in bioma terra. Emanuele Pizzilu. Vero, Emanuele. Occhi pinti. Ma a quello che veniva in bici, vero? Salutiamo Emanuele. Ciao Emanuele. Ciao. Che tra l'altro l'anno scorso ci portava sempre qualche informazione carina sui lupi. A me piaceva. Come si sono estinti i lupi. Il lupo cecoslovacco. No, stanno rimasto impresso a me. Io direi che adesso ci ascoltiamo un altro po' di musica e poi dopo ci prepariamo per intervistare i nostri ospiti. Entriamo nel loop, di Block Sonic, della solita etichetta che a me piace molto. E cosa ci andiamo a ascoltare? Andiamo a ascoltare Regenerated Ed Peace con Sandwich, che ci sta bene per questo orario. E remix di C-Doc, un brano di quelli sempre su questo andazzo molto tranquillo, rap, funk, da inizio groove. Serata. Da inizio serata. Hey bastardo, don't be startled, just do the charo and shake your frame. Explaining the game, it's Bond and Don Pardo, here to kick our soul into tomorrow. Why we got more haters than carbohydrates? I pull their taros, high stakes, they lose their marbles. Irate psycho babbling, stuck in canoes without paddling. It's like Doc not changing the plot when they rock the time, traveling through the wormhole. Let's go to a primordial portal, that's the most important folklore since Zorro. Flow like dorsal fins through tidal winds, making it pop like Orville Redenbach. I'm impartial to what's immoral, like bonbons, blowjobs, and console porno. Top girls with pom-poms, the fine beyond. Autopilot, check my mileage on the Autobahn. Craftwork song, wreck my autophones. Flow so cool like it's the fawn or the fawns. Like Armstrong on a Tour de France. Sans one nut, not going for the bronze. Hear the song of invaluable animals. When I die, feet was salvageable to the cannibals. I'm Mr. Vladix, the finest plugging up your hard drive so I can run you. I'm Mr. Vladix. I'm Mr. Vladix. Vladix, the distinguished linguist. I'm Mr. Vladix. What can I get you? Let me fetch a rhyme that'll set your mind better, set your spine on a stretcher. Well, better yet, stretcher like Heather Hunter. After getting balls, hitting tether like leather. Trap on, it's fun for my tongue to run laps on. Fun raps on drum tracks. Like a cowboy has high hats. My snare snaps like bad traps. Right where my nutsack meets my lower butt crack. I peel it back to reveal I'm chapped. So drink to that like Ipecac syrup. I'm done kicking shit, wash my stirrups. Stirring up my lyrical elixir. Baking up a magical mixture of compatible pictures. The radical back from sabbatical. Like Parker on a saxophone. Hit heads like whack-a-mole. Pack a bowl to the brain of fun. RHB rise like unexplained hard-ons. Beg your pardon, excuse me followers. Our joints remain on point like sword swallowers. Got you hollering like girls hugging koalas in. I rest my feet on their breasts like an ottoman. RHB taking notarized drives to make the words flip like the script was polarized. What's the time? Time to get iller than Ileana Douglas at a fuck fest. Bug it. it. I'm flipping and cracking and sauteing and filleting and breaking and making a brain omelet. I'm Mr. Phonics. Delle hits del futuro. abbiamo ascoltato un po' di brani della Block Sonic, etichetta che ormai è fissa a radio, sì, ciao, a Wolf Trips, a Radio Wolf Trips, è diventata talmente tanto grossa, è diventata una radio. E esattamente abbiamo ascoltato un brano, quest'ultimo, che è appena uscito, si chiama The Silent Panther Free and Pumps. E non è male, a me non dispiace, è roba molto tranquilla. Punto MP3 non la raggiungiamo. No, punto MP3, diciamo che è per gli amici il punto MP3. Ma finalmente abbiamo i nostri ospiti dall'altra parte del vetro una volta, invece qua dall'altra parte della scrivania. Sono qua con me, dai. Io farei il rullo di tamburi e presentiamoli. Tra l'altro si accende ancora la lucetta dietro il vetro. Ma tu non lo sai, ma c'è dietro un altro che sta facendo veramente la radio, noi facciamo finta, sì. Vabbè, salutiamo. Allora vado dietro con lui. Dai. Salutiamo Sara e Benedetta del blog Biomaterra. Ciao, buonasera. Bene. Bentornate. Sì. Diciamo che una volta all'anno vengono più o meno. Prima venivamo più spesso, poi. Infatti, io volevo dire, ma in questo anno che è passato, che articoli avete fatto nuovi? No, ma prima di tutto, presentiamoci, visto che l'altra volta avevamo più una collaborazione stretta, adesso se li ricorda, chi è che sono? Scusa, com'è che ti chiami? Chi siete? Allora, io e Benedetta facciamo parte del blog, anzi, più che blog ci piace chiamarlo adesso progetto, che fa più figo, no? Cool. Si chiama Biomaterra ed è rivolto alla divulgazione scientifica. Parliamo di scienze naturali, scienze ambientali, in realtà un po' tutto quello che riguarda questo tema. Parliamo anche di viaggi e soprattutto sostenibilità, educazione alla sostenibilità. Abbiamo iniziato anche a fare eventi e l'ultimo è stato settimana scorsa, quindi siamo proprio freschi. È stato anche molto bello. Sì, molto bello, sono molto contenta che vi è piaciuto. Sì, io invece sono ancora fresco perché prima ero fuori. Ecco, no, infatti, quindi vi siete lanciati un po' sulla parte degli eventi, ma avete anche praticamente deciso di fare un'associazione, giusto? Allora, c'è c'è in ballo questa cosa e insomma stiamo cercando un po' di capire le carte, mica carte da fare. Un po' la parte, diciamo, burocratica. Sì, esatto, che è quella più... Però oltre agli eventi, quindi fate anche articoli di vario tipo. Sì, adesso ci siamo molto più modernizzati. Facciamo un articolo a settimana ogni martedì, esce verso le 14 pure l'orario. Siamo diventati... Dove esce? Allora, esce sul nostro sito www.biomaterra.com. Segnatevelo, ripetilo. Esatto. Sì, .com. Sì, l'abbiamo fatto insieme. Okay. www.biomaterra.com. Ogni settimana, ogni martedì esce un articolo di qualsiasi genere. Ad esempio, stiamo facendo anche delle recensioni di libri, di film, oppure anche notizie che riguardano la natura. Ad esempio, l'ultimo articolo è stato quello sulla mattanza delle balene, un tema molto forte e, insomma. Una cosa particolare è che loro due sono fotografe esperte e molte foto che trovate sul blog effettivamente sono state fatte da loro, non sono state prese da internet. Ma correggimi, la mattanza dei cetacei, sì. A quanto so io è molto utilizzata la parte asiatica, la parte del Giappone. Sì, allora l'articolo era più concentrato su quello della Norvegia, perché in realtà avviene anche lì, non avviene solo nella parte che hai detto tu, e quindi si è più concentrato su Norvegia e Giappone. Ok. Allora facciamo così, ci ascoltiamo un brano e poi dopo c'ho ancora un po' di domande per voi, magari se volete presentare anche qualche new entry. Ci stiamo ad ascoltare e da dove? Andiamo ad ascoltare sempre un brano di Block Sonic, quindi si parla è un'etichetta della California, quindi non c'entra niente col Giappone, Norvegia, no, non c'entra cetacei. Nulla, no, perché era già stato programmato così. Che cetaceo sta passando in California in questo momento? No, mi sa che purtroppo in California non è che se la passano benissimo, soprattutto a livello di tempo. Sempre pronti per il barbecue. Infatti. E il brano è di Fenne che si chiama Omertà, però in realtà non è un italiano, è un brano così, non ho mai capito perché. Thank you. E iniziamo a alzare anche un po' il beat della musica, che abbiamo ascoltato un po' di musica tranquilla, ma pian pianino iniziamo un po'. Ma ti comincio a vedere le mani che si alzano. Piano piano. Siamo ancora la stina. Diciamo che ci stiamo per svegliare, ecco. Però continuiamo un po' a parlare con i Biomaterra. Come vai, dici, facci questo interrogatorio. No, io una cosa che mi sono sempre chiesto, che poi alla fine non ho mai trovato una spiegazione, ma perché il nome così? Allora, il nome l'ho inventato io ed è praticamente un insieme di... Guardalo! È un insieme di parole. Allora, bioma e terra. Prima di tutto, che cos'è il bioma? Il bioma in ecologia è una porzione di superficie nella quale c'è un certo tipo di vegetazione, un certo tipo di animale. Per esempio, la savana è un bioma. Ok. E la terra? E terra, perché appunto cioè bioma va a considerare solo un tipo di area, invece siccome bioma terra, perché riguarda tutta, quindi la terra, quindi bioma terra anche. Lui diceva, senti questa Cristina, bio ma anche virgola terra. Ma terra, punto di domanda. Hai capito? Che è anche carina come io idea. Io me ne vado. Senti, cambia l'idea che è più bella la sua. Approvo quella di Dome. Bene, allora, intanto prima di introdurci qualche altro articolo che avete scritto, qualche novità, qualcosa, dateci un po' i vostri contatti. Parla anche tu. Ciao a tutti. Allora, potete trovarci su Instagram con il nome Biomaterra. Invece su Facebook, Biomaterra_ Ascoltando la Natura. Ma Biomaterra con la virgola senza. Va bene. E quindi dai, raccontaci un po'. Anzi, no, scusami, introduci un nuovo, la new entry di Biomaterra, visto che avete, il loro staff è sempre in evoluzione. Adesso, allora, in quanti sì, siete? Siamo partiti, che eravamo in due, io e Emanuele, ragazzo della bicicletta che diceva prima Tony. Che non c'è questa sera. No, salutiamo Emanuele, no. Ciao. Ciao. Ma perché sta arrivando? Diciamo, tra, in bicicletta, con la pioggia che viene, domani è qua. E siamo partiti, eravamo in due, poi io ho messo un annuncio perché insomma, cioè, ci siamo resi conto che in due non riuscivamo. Allora è entrata Benedetta, che ci seguiva, gli piaceva l'idea, e poi da due a tre siamo diventati nove. Te capì? Oh là là, altri l'ultima... due giochiamo a calcio. L'ultima new entry è Marco, che è qua con noi, e dopo ci parlerà anche lui. Oh, bene. Raccontaci un po' di questo evento che allora c'è stato. Cos'è che era? Sabato? Sì, allora è stato. Ah, prima di parlare, vi devo dire una cosa. Una chicca! Sì, bravo. Tu praticamente devi immaginarti la sala, no? C'era un sacco di gente, tutti i professori. Ma dove? Giusto? Sì, la maggior parte. Era un. Cos'è? Un convegno. Sì. C'erano tutti i professori, tutti seri. A parte che quando siamo entrati io e la Cria ad ascoltare, c'era uno che urlava. Ma che è sta roba? Ma veramente? Cioè, era inquietante. Sembrava di essere, sai, in quei cosi tipo americani dove c'è il pastore che predica, ecco. Sì, una cosa che sembra una cosa anche, che io ho visto anche quando sono stato a New York, Sì. In una chiesa dove facevano gospel c'era il prete che era uno spasso vederlo. Mi hanno fatto anche entrare. Sì, 10 minuti poi mi hanno portato fuori. Perché nel gospel ballavo più dei neri. E praticamente cosa è successo? Dopo che c'era stato questo qua che urlava, salgono loro tutte intiborite. In realtà poi dopo hanno parlato. Siamo un po' scaldate. Vi siete scaldate, cioè, alla fine per Benedetta è stata la prima, quindi lei era un po', però molto. Siamo state brave, dai, vero? Sì. No, sì, dici sì, se sì. Siamo state brave. Sì, sì, sì. No. Io farei partire un applauso. Sì, perché oggi non abbiamo il jingle man. Faccio io jingle man. Va bene. Tipo quello di scuola ma di polizia. Ma non è ancora arrivato. Ma che ne so io. E anche ma lui tutto... in bicicletta insieme a Emanuele. Ragazzi, voi che siete qua, datemi notizie. Tutto a posto la macchina? queste sono cose, diciamo, nostre, mettiamola così. Va bene, quindi Sara, raccontaci. Oh, Benedetta, chi vuole parlare. Benedetta, dai. Raccontateci un po' di questo evento che è stato molto interessante e carino. Allora, l'evento si è svolto sabato 17 novembre a Solbiate Olona ed era appunto il convegno si chiamava Artisticamente, la via Francesca del Lucomagno, la valorizzazione del patrimonio culturale, arte, territorio e ambiente. Questo titolone. Allora, è stato un convegno alla quale noi abbiamo partecipato con il nostro Bioma Quiz. Abbiamo deciso di chiamarlo così. Questa è una cosa interessante. Facci una domanda, perché se la so. Fammi una domanda del Bioma Quiz. Allora, adesso ti spiego bene, perché ovviamente noi abbiamo fatto domande scientifiche, ma all'interno del il convegno era sulla valorizzazione del territorio della Valle Olona. Io ho fatto scienze della natura, ragioneria, quindi sono preparato. Che natura. Natura no, 7 più, No. Ma che sei un polletto, 7 più. Pensavo sei meno. E praticamente questo Bioma Quiz lo abbiamo fatto 8 domande in cui tu dovevi collegarti con il telefono e potevi rispondere direttamente dal telefono. Cioè appariva sullo schermo la domanda e noi leggevamo la domanda e gli altri rispondevano. Guarda, c'è già la location, le cuffiette ce le ho, il microfono pure, mi metto qua a ballare tipo nei quiz. Più o meno era così. La cosa bella è che praticamente ogni risposta c'era la classifica. Esatto. E noi, né io né la Cris, siamo mai comparsi nella classifica. Ti dico solo questo. Ma veramente. Perché non avete studiato scienze della natura. No, ma anche sai cosa? Cioè, vinceva quello che rispondeva ovviamente correttamente, ma anche chi rispondeva più veloce. Eh sì. Per cui, cioè, tu potevi anche rispondere giusto, ma se prima uno di te rispondeva... È un po' come il milionario quando facevi la selezione iniziale. Non so se vi ricordate, no? Che c'era una domanda semplice. Vero. Alla fine. E sì. Tu praticamente si qualificava chi aveva risposto più veloce. Com'è che si chiamava il dito più veloce? Il dito più veloce. No, com'è che si chiama quel programma musicale? Sarabanda? Sarabanda, c'era l'uomo gatto. Va bene. No, è stato un bel evento. Mi è piaciuta l'idea anche di usare lo smartphone, anche se diciamo che alla platea non è stato proprio. Erano docenti, per cui alcuni erano un po' vecchietti e ci hanno messo un po' a leggere. Avevano ancora il 5110, mandavano i messaggi. Però col T9 si andava bene, era lì. Non era il 3310 una volta? No, io il primo telefono è stato il 5110. Il 3310 era già l'evoluzione che si era rimpicciolito. Il 5110 aveva anche l'antennino, ragazzi. Eh sì. Dai, continuiamo con un po' di musica, che poi dopo facciamo un po' il punto sul, diciamo, sulle vostre attività future, sui vostri progetti futuri, visto che ho detto che non è più un blog ma è un progetto. Avrete dei progetti futuri, no? Esatto. Va bene, vai. Abbiamo un elemento di disturbo qua alla mia sinistra. Non è Fabio. Ma pensavo che io ero già contento, guarda, orgoglioso. No, perché di essere disturbatore. No, noi facciamo la coppia Fabio e Domingo. Insomma. Ormai è collaudata. Infatti, vi siete messi anche vicini stasera. Stasera c'è tanta gente. C'è tanta gente. Siete compari. Allora, intanto. È bella questa postazione, io vedo tutto. Sì, beh, anche di là vedi tutta l'altra parte. Cioè. Speculare. No, vedo gli ospiti così. Anzi, vedo che ce n'è uno nuovo. Infatti. Com'è che ti chiami? Marco. Un applauso a Marco. Finalmente l'abbiamo conosciuto, grazie, perché grazie. Era qua tutto il giorno, poverino. Sì, l'ho visto lì seduto, timidino. Adesso sentiamo un po' la sua voce. Quindi tu sei il new entry di Biomaterra, mettiamola. Esattamente. Ok, sì. Ok. E di cosa ti occupi? Ah, mi occupo di... Il primo articolo che ho scritto è su una case story, una piccola case story di Patagonia. Penso che nei prossimi articoli mi occuperò più di politica, cioè quello che fa la politica nazionale e internazionale sull'ambiente, sulla sostenibilità ambientale. Cosa interessante, molto interessante. Quindi diciamo scrivi articoli... Sì, ho seguito a lungo il blog, che era ancora blog e non progetto, di Biomaterra. E mi è piaciuto molto, poi conoscevo i due iniziali, i fondatori. Di Biomaterra e mi sono voluto unire per la causa. Bene. E beh, è un bel progetto, dai, che continua a evolversi. Che progetti futuri avete in generale? Vabbè, tu adesso quindi ti dovrai concentrare su questi articoli di politica ecologica, mettiamola così. Il prossimo sarà, lo preannuncio già, sui Verdi, i Grünen in Germania, che stanno ottenendo un bel successo con, appunto, già il nome dice tutto, mettono la sostenibilità ambientale al primo posto e possono essere una buona alternativa al populismo crescente, anche un'analisi. Ma giusto per curiosità mia, ma sono non sono simili ai nostri Verdi, nel senso, come concetti? Sono sì, però sono un partito forte, nazionale, che ha percentuali altissime di consenso, e in Italia i Verdi non so se si presentino alle elezioni, sinceramente. Quindi... Sì, si presentano, ma perché mi ricordo ho fatto lo scrutatore per un po' di volte. Sono molto marginali, purtroppo, aggiungo. Quindi, Io avevo una curiosità, scusami. Sì, però... Ah. Ok, vai. Avevo una curiosità. Quanto ci mettete a fare un articolo? Dipende dall'articolo, fondamentalmente. Ma ci sono delle ricerche da fare, c'è tutta una preparazione dietro. Sì, quindi... sì, allora, parlando di articoli scientifici, ad esempio, io ci metto molto, perché comunque devi andarti a leggere tante cose. Non serve leggerti La Repubblica, siti un po' sicuramente, così. Sicuramente, ci deve essere una documentazione più approfondita. Esatto. Poi, ad esempio, siccome a dicembre faremo degli articoli sul Natale, è chiaro che lì vai ad informare. Che ne so, abbiamo fatto un articolo il Natale scorso sui regali da fare. Lì, chiaro, è un articolo più leggero, più facile da scrivere. Sì, quello era interessante, perché me lo ricordo, hai fatto anche le foto in casa, giusto? Sì, vero. No, quello era un articolo interessante, perché praticamente spiegava un po' i regali visti nell'ottica del, non del risparmio, però del non consumismo. Esatto. E poi altri progetti invece ti diceva interessavano qualche progetto futuro. Volevo sapere qualche progetto futuro. Allora, oltre tanti articoli, il mese prossimo pubblicheremo due articoli a settimana. Quindi non più solo il martedì, ma due giorni a settimana. Bene. Faremo anche dei prossimi eventi, come il Bioma Quiz di sabato scorso, e con delle collaborazioni molto importanti. Bene. Sì, allora sto facendo io, diciamo, ho deciso di fare un articolo io, Emanuele, assieme a Mare Vivo, che è un'associazione che si occupa della difesa dei mari. Ovviamente Mare Vivo Varese si occupa della difesa del lago di Varese, e quindi stiamo facendo un articolo proprio sull'inquinamento del lago. E questo, appunto, è un articolo scientifico, quindi richiede... sarebbe da approfondire qualcosa su Corgeno. Sai che il lago a Corgeno non è proprio non è il massimo, anche quello di Varese, però tra i due non so qual è il messo peggio. Penso che abbiamo sono il lago più inquinato d'Italia e anche il fiume, con il fiume Olona. Eh sì, eh sì. Beh, Olona eravamo settimana scorsa, era infatti la Bioma Quiz, era incentrato sull'Olona, giusto? Sì, sì, esatto. C'era tra l'altro una domanda sulla qualità delle acque, però in realtà erano, diciamo, definite come sufficiente. Cioè, non... Io gli avevo dato fiducia, gli avevo messo buono. Ma dal punto di vista post-industriale com'è la cosa? Cioè, in senso... nell'ambiente, l'ex ditte che sono rimaste, non si sa niente. Allora, ci sono delle normative adesso, perché ovviamente prima non c'era nessuna legge e tutti scaricavano sul fiume, quindi adesso diciamo si è fatta una legge proprio su chi deve scaricare. Ci sono ex poli industriali che sono lì abbandonati. Sì, sì, non so sì. Se c'è dentro amianto e tutte queste cose qua, visto che è un parco naturale. Non apriamo questo argomento. Va bene, dai. Facciamo così, lanciamo un po' di pubblicità e poi dopo concludiamo con un po' di contatti vostri, quello che ci volete dire, dai. Vi lascio un po' di ancora un po' di spazio per raccontarci del vostro progetto. Wall Street, Wall Street, Wall Street, alla ricerca delle hits del futuro. We'll be right back. E rientriamo dalla pubblicità con questo brano della Run or Run Recordings. Io sono rientrato con una frustata di capelli della sì. tua carissima sorella. Sembrava un po' la pubblicità di tipo, come si chiama? Sai quelli lì? Le pubblicità, quelle degli shampi, no? Dove si vedono i capelli. Sì, ma abbiamo qua anche la fotografa che fa lei il suo servizio fotografico. Ai capelli. Allora, contatti di Biomaterra. Oh, infatti. Allora, potete anche seguirci. Se li avete già dati prima, però ripetiamoli, ripetuta Juvent. Va benissimo. Allora, potete seguirci su Facebook come Biomaterra trattino ascoltando la natura, oppure su Instagram ci trovate come Biomaterra e tutto appiccicato ovviamente, e poi sul sito www.biomaterra.com. Detto tutto. Tutto appiccicato da un po' che non la sentivo, sì, come parola. Eh no, perché magari uno, poi se no, Biomaterra. Mi hanno detto che a questo quizzone che hanno trasmesso tutti i canali mondiali c'era l'Eurovisione, quando è partito c'erano le stelline. C'era uno dei vari premi. Esatto, allora siccome abbiamo fatto la conferenza sulla Valle Olona, abbiamo deciso di fare un premio che comunque fosse inerente all'Olona. Cosa c'è nella Valle Olona? A Parabiago c'è il Museo Crespi Bonsai. Okay. E quindi praticamente il premio erano due ingressi a questo museo. Che è un bellissimo museo. Io sono andato a vedere, non la parte del museo, la parte, perché c'è una parte commerciale, mettiamola così, dove puoi comprare i bonsai. Invece c'è il museo dove c'è dei bonsai enormi. C'è la scuola dei musei. La scuola dei bonsai. Bene, bene, ci passerò anch'io. Magari sono anche più alti di me i bonsai. Ce ne sono alcuni che sono molto alti, effettivamente. Non è che sì, che costano 3.000 arrivare. Euro, però. No, secondo me quello lì non è in vendita, quello del museo. Non ha un costo da 3.000 euro. Ah, ma è quello del maestro di Karate Kid, ok? Sì, sì, sì, sì. È quello originale. È quello del film, sì, che l'ha messo nel dirupo. Poi si è rotto. Vabbè, vabbè. Allora, vabbè, salutiamo io. Tu te ne vai? No, io saluto. Non lo so, salutiamo. No, loro restano qui. Sì, certo. Volete, non so, se vuoi dire qualcos'altro, qualche Facciamo altra. Io dire all'ultimo arrivato. Anticipazione. Fermati. Okay. Fai lì qualcosa lui. Vieni. Avanza. Ecco, no, vedi, l'hai preso la sprovvista e lui poverino non sa giusto, cosa dire. No, mi sono ricordato. Oh, allora, bene, bene. Potete caricare le stories su Instagram taggando Biomaterra e niente. E noi ve le riposteremo sul nostro profilo. Esattamente. Ovviamente devono essere foto di natura, non foto di voi al mare, che non c'è da niente. No, perché ho visto effettivamente quest'estate avevi messo un sacco di foto, avevi ripubblicato un sacco di foto che arrivavano. Beh, mare e natura comunque. È vero. Sì, ma non la diciamo, bella in bikini. Ecco, non quelle quelle natura. Quelle solite foto dei viewster, diciamo. È arrivato l'altro. Vabbè, sono così le foto che fanno d'estate. Va bene, dai, noi vi salutiamo. Magari ci sentiamo più avanti quando fate qualche altro evento, tutto sommato. Volentieri. Ah, ma non hanno bisogno di due DJ per fare la io l'ho sempre proposto. Quando faranno qualche mostra bar aperitivo, noi ci proponiamo sempre. La nostra musica non inquina, attenzione. Infatti, non inquina. Poi è gratuita, quindi non costa nulla, quindi siamo proprio emissioni in linea. Emissioni CO2 zero. Ecco. Ma quello non lo so, però vabbè, dai, diciamo che ci siamo. Cosa va bene. Continuiamo con un po' di musica con Vincent Augusts con Vuoa. Bello il tuo. Vuoa, hai visto? I just might fly, I just might not wanna die. Kinda been a good life. Hey, hey. living a good life. I'm here for a good time. Been coming for a long time. Grew up with the shook type. Fell in with the wrong type. E adesso siamo veramente al completo. Diciamo che qua dentro non si respira più. No, perché siamo veramente in tanti. È arrivato anche l'altro Fabio e la Sabrina, che è la nostra ascoltatrice numero uno, possiamo dire. Allora salutiamo. Ciao Sabrina. Salutarla. Ciao Sabri. Ciao Sabri. Anche se lei non si vuole far vedere, ma c'è. Va bene, va bene. Intanto salutiamo ancora i Biomaterra che stanno invadendo lo studio di macchine fotografiche e oltre. Obiettivi vari. Ah, perché non eravamo tipo al reportage? Sì, infatti, al reportage. Io sono vecchio. Noi siamo poliglotti. No, allora ti dimentichi di Mixer. Ecco, bravo. Tu sei molto. Non sai cos'è. Cos'è? Mixer è un programma di. Come si chiama? Su Rai 2 di Minoli. Gianni Minoli. Comunque, voi andate un grande giornalista. C'era ancora il muro di Berlino, ve lo ricordo. Io, beh, 30 anni fa sì. Io è da inizio serata che voglio salutare Diego. Ah, è vero, è vero. È vero. Un applauso a Diego. Uno, abbiamo fatti troppi, uno. No, non è vero. Salutiamo Diego che lui fa il programma al giovedì Estremo Ego, che parla di musica, dov'è? Metal. Bello parlare di una persona che non si sa dov'è. Eh no, non lo vedevo, era qua di fianco a me. www.estremoego.it. Faccio promozione al mio programma. Ogni giovedì dalle 20 alle 21 la tua webzine Hard and Heavy. Listen to Estremo Ego. Mamma mia, la classe. Sexy, sexy, e comunque sono andato a vedermi gli Slayer e voi no. No, io l'ho visti dal tuo Facebook. Ogni tanto guardavo le sue dirette Facebook. Ricordiamo che gli Slayer sono un gruppo che ha ispirato molti gruppi come Metallica e via dicendo. Sì, no, era bellino, c'era un po' di gente, non era male. 8.000 presenze. L'ultimo tour. Però l'ultimo tour che faranno. Sì. Oh, va bene. Io ho un po' di argomenti ancora da parlare nella serata, anche se certo. In realtà devo dire che c'ho un Fabio che scalpita di dire le sue perle, di fare i suoi saluti. No. Perle di saggezza. L'altro Fabio che invece scalpita di mettere i suoi jingle, quindi cioè, capite che è una situazione difficile. Infatti è arrivato, ha già attaccato il computer. Mi ricordo un progetto dance degli anni 90, i Tu Fabiola. Cagata. Bella questa, mi è piaciuta. No, in realtà pensavo dicessi tu brother, ecco, una cosa del genere. No. Ma rivecchia il piacere. Ecco, è arrivato, lo sapevamo che doveva tirare fuori. E stasera mi sono messo qua per stare più comodo. Adesso io torno là, ragazzi. Tra poco ve lo dico. Andiamo a ascoltare il prossimo brano dell'etichetta Dead Records. Dead scritto D-T-H. Vabbè, come cacchio è scritto, non lo so. Bello. Poi ve lo leggete, le leggete quando mettiamo sul podcast. Il brano è GRYDTMIMK. Gira la ruota. Bravissimo. stavo per fare un fabicidio, ve lo dico. Fallo perché tanto sono da questa parte, quindi sei salvo per oggi. Comunque devo dire, c'era questa musica che mi ricordava la Symbol Nautilus. Ma la Symbol? Ah, la sala Symbol. Gira la ruota. Ce la puoi fare. Dille con parole tue. A proposito di la danza del ventre. Ragazzi, ma qui è... Aspetta che mi devo ancora riprendere, che c'ho ancora i bolloni. Facciamo un'introduzione. Settimana scorsa ci siamo lasciati verso la fine della puntata dicendo che Fabio sarebbe andato a vedere, ad assistere a un evento con un suo amico, che erano le danzatrici del ventre, giusto? Sì. Ok, adesso abbiamo... La danza della panza? No, lascia stare che cosa danza. Vabbè, comunque. No, devo dire che è stato un evento interessante, bello, artistico. Culturale. Erano molto brave, devo dire. Vorrei salutare Linda, che era la ragazza che ci ha invitato. Il posto era anche carino, si trova uscita Cam, adesso senza fargli pubblicità, ma la zona è quella, Cam di Milano, dopo Forlanini. Vabbè, non conosco. Presente? Era in prima il mondo del bambino. Avevo il divanetto. Ah. Ragazzi, io ho apprezzato tutto perché avevo il divanetto davanti e quindi ho visto bene lo spettacolo. E devo dire che non è semplice, no. Perché quando vedi muovere questo ventre tipo serpente, dici, minchia, scusate per il termine. Devo taggare explicit lyrics. No, comunque è stato interessante e carino. Poi ho apprezzato anche l'evento artistico. Sì, no, infatti l'evento artistico. Ma posso dire una cosa inerente a questa cosa? Io l'ho vista. A te, aspetta. Allora, tu dici sempre cavolate, ma solo. Oggi guarda che sei accompagnato, Ti dico solo quello. Vabbè, avendo fatto. Aspetta, mettiamo il bollino rosso in radio quando parla lui, Censura. Ha parlato. La censura, vai. Siete. Vai, di qualcosa. Ma avendo fatto praticamente quasi 2 anni in Egitto, ho avuto proprio modo di assistere proprio alla vera e propria danza del ventre e anche alla danza del Tanura. Cioè, raccontaci. Praticamente la danza del Tanura è praticamente un artista che praticamente si veste con una, non lo so spiegare bene, con una specie di tuta, con una cosa grossa così, tipo una gonna, esatto. Quindi una gonna circolare. Ma per praticamente, E inizia a girare praticamente per 20 minuti senza mai fermarsi, che se lo faccio io cado a terra dopo 2 minuti. Io farei un jingle con praticamente. No, va bene così. Siamo scherzando. Mi viene in mente un po' la tarantella, no? Sì, praticamente no, sì. Che gira con queste gonne. No, ma l'ho visto in qualche video. Dove è andato? Sì. È scappato. Praticamente. Anche Bali Balcani. Praticamente è scappato. Sì, no, è vero. Effettivamente vero. Dov'è? È caduto? No, è qui, sta ravanando qua. Sotto. Dai. No. Allora andiamo a ascoltare un po' di. Domenico, ci sei tu? Ragazzi, chiudete la diretta Facebook, noi non c'entriamo. Il bollino rosso l'abbiamo messo prima, Ecco. Pure il rumore. Ecco. Sono gli operai, ragazzi, non pensate. Stanno fissando il cartello fuori dalla radio. Io comunque volevo invece fare un momento serio, ma voi giustamente siete sempre. Lui Ravana sotto, dai! Stava attaccando la carica. Attaccando del PC. E lasciamo stare. Stava infilando la spina. Ecco. Io stavo. In realtà volevo fare un momento serio perché devo presentare un'etichetta che col quale sono in contatto. Ma volete vedere che questo qua è già diventato rosso. Da... No, mi è piaciuto che Tony, come ha sentito l'antifona, è già nell'altro lato. Voleva sperimentare la spina. Voleva fare il trio lì. Stavo dicendo che volevo presentare questa etichetta Omeak, che l'abbiamo già ascoltato un po' di tempo fa e produce musica, diciamo, sull'house, houseggiante, ed è formata da due ragazzi molto bravi, anche abbastanza giovani, e l'etichetta in realtà loro fanno anche delle compilation, che tipo la Repubblica dell'Omeak, che non so se esiste uno stato che si chiami Omeak. Forse giocano su Oman, però non devo vedere da dove vengono, mi sembra forse dalla Grecia, quindi non c'entra nemmeno nulla. E niente, loro hanno l'idea, diciamo, di ridefinire un po' il concetto di house music, quindi hanno questo particolare concetto musicale. Andiamo a ascoltare un paio di brani e poi rientriamo con le vostre perle di saggezza. Thank you. Allegra con bricola di là, non vi riuscivo neanche a richiamare per fare l'intervento come stasera. A scuola, no? Mamma mia. Filippini 4. Perché? Ci fate tutti fuori dalle cazzate che diciamo. Comunque, allora, volevo salutare quindi Mr. Houston e Unchained Zebra, che sono i due autori dell'etichetta... Fammi guardare male, sono i due autori dell'etichetta Omeac che... Non avevo capito il secondo nome. Unchained Zebra. Unchained? Unchained Zebra, Unchained. Conosco. È di Quarto Giaro. Sì, quella parte lì. Comunque li salutiamo, che sono presenti i fondatori dell'etichetta Omeac. Dopo sicuramente ci manderanno un po'. Loro mi mandano sempre musica nuova, con quelle nuove uscite che fanno. E loro sono in Grecia, giusto? Mi sembra di sì. Adesso vado a fare una verifica, effettivamente. Secondo me è il taccuino che gli manca. Che... No, il taccuino c'è ed è anche abnorme adesso. Gli ha dato da mangiare. Si è evoluto come i Pokémon. Bravissimo, è la versione evoluta del taccuino. Infatti è taccuone. Taccuccio. Ma cos'è? È il parente del tacchino, per caso? Ecco, sapevo. Guarda, ok, ragazzi, buonanotte, ci vediamo domani. Lo sapevo, ero qua pronta che lo dicevo. La venire, riportatelo a Milano. Ma picchialo anche, in modo molto forte. No, non glielo dire, che sennò lo fa veramente. No, ti aiutiamo. Grazie, ti voglio bene anch'io, Domenico. Lascialo in mezzo al mare. in mezzo al mare. E blocca tutte le scialuppe di salvataggio, per piacere. Ma secondo me mi fa lo sgambetto, finisco dentro il mare e non fa neanche scattare la sirena uomo in mare, secondo no, me. No, ti ha comprato il biglietto per Titanic, non lo sai, ma tu a giugno parti. Va bene. E niente Fabio, ormai siamo arrivati verso l'ultima mezz'ora. Abbiamo ancora un argomento interessante, però se vuoi dare libero sfogo. No, beh, sentiamo questo argomento. No, lo introduciamo dopo, Perché non trovo la donna, non c'ha libero sfogo. Ma io te tesoro. Ho capito che sei già dietro di me. Va bene, oh. Lavori anche di... questo. Ma la poi siamo una grande famiglia, no? Io davanti la Deborah. Da voi avete quattro paia di tette davanti. No, sarebbero otto. Se fai, scusa, il paio. C'ha ragione. Quattro paia. Ce le ho. No, hai ragione lui, perché quattro paia vuol dire due per quattro, otto. La matematica non è. It's not an opinion. Abbiamo qui l'arsenale. No, vi volevo dire invece che stavo sentendo Katia. Effettivamente mi ricorda che noi su Instagram si sta riprendendo. Probabilmente a breve ritornerà anche. Sara, tu hai sentito qualche dolore quando Katia si è fatta male? Vabbè, c'è la telepatia, la telepatia del dolore. Dica di casa. Allora, io ero a lezione, mi ha chiamato, ha detto, ma cosa vuoi la lezione, no? Ha detto, Katia, non posso, sono a lezione. Mi manda un messaggio e mi fa, mi hanno investita. E io lì sono sbiancata. Anche perché io sono a lezione, ma ero a Genova, quindi. La cosa più angosciante è stato il messaggio vocale che abbiamo riascoltato dopo. Mamma mia. Vero. Praticamente stavo facendo un messaggio vocale mentre era in giro. Ah, gli è successo durante. E poi a un certo punto si sente un casino. Praticamente perché era stato bello. Però fortunatamente non si è fatta nulla di grave. Si sta riprendendo. Qual è quella ragazza? Quella che stavate parlando un'altra volta. Quella ragazza lì. Sì, mia sorella. Qui passa gente così, no? Chiudiamo il programma adesso. Non vi preoccupate, ci vediamo settimana prossima. Lo sapete che io ci arrivo col fuso orario di Bangkok alle cose. Quindi Bangkok è... Pechino e Bangkok insieme. Tu col fuso orario di Giove. Di Giove. No, ma Fabio non ci credo. No, col fuso orario del Marocco. Va bene, io dico sempre va bene, mi devo togliere su Wiz e dire va bene. Praticamente. Però praticamente non l'ho detto. Chi è? Bravissimo. Esatto! Ascoltiamo il prossimo brano di Phonocake, cioè della Phonocake. La etichetta preferita. Bravissimo. Non l'abbiamo capito. Voi vi siete voi vi siete messi a fare le foto, a divertirvi e avete bucato. Va bene, abbiamo ascoltato il brano di Hanno fatto il bucato. No, beh, scusate che abbiamo ascoltato un brano della Phonocake. Invece tu ti sei bucato. No. Sempre. Non ha detto esatto. Quella parola. È già buono. E infatti, infatti. Praticamente. Ti dicevo tutta la serata stavo cercando di introdurre questo argomento un po' più serio del nostro programma. Che poi sarebbe la base del nostro che programma. È stata, no? Una difficoltà atomica, no? Stasera. Delle net label. Sì, ecco, volevo un po' parlare di che cosa sono le net label, ecco. Perché esistono e perché mai sono state inventate, ecco. Praticamente le net label, Tony, gli ho spiegato un po' la cosa, e sono delle etichette che producono musica in modo gratuito. Quindi cosa vuol dire? Invece che avere tutti gli introiti delle case discografiche più grandi, producono musica senza richiedere un compenso per... Sono una via di mezzo tra le case discografiche, quelle grosse... Chiamiamole etichette open source. Sono proprio etichette, bravissimo. Hai detto proprio la cosa giusta. E si applaude da solo. Si applaude da solo, però è meritato, perché effettivamente il concetto è quello. Il concetto è quello, perché... Ma che brutti. Sì, veramente, bruttissimi questi jingle. Applauso. Vabbè, comunque... E praticamente il... Ecco. Ormai sei anche te etichettato praticamente. No, io l'ho detto solo una volta e non lo dirò mai più in tutta la mia vita. E quando stai parlando con lui le altre tre volte che le ho contate, come la mettiamo? Vabbè, torniamo. Ma anche il tuo record non lo batte nessuno, ragazzi, perché praticamente... Ragazzi, torniamo al discorso. Il discorso è praticamente che il download che puoi fare da queste etichette è gratuito ed è anche legale. La cosa importante in Italia è quella. Dovrebbe andare alla grande. Effettivamente quello è un po' il concetto. L'unico discorso è che però probabilmente negli anni si è andato un po' a calare la qualità, nel senso che aumentando, magari diffondendosi molto di più programmi di Spotify, queste cose qua. No, programmi, no? Proprio di produzione musicale, tipo che so, Fruity Loops o cose del genere, sì. La produzione è molto più facile, cioè chiunque si può mettere lì a fare un brano e proporlo a una net label, quindi al contrario che invece magari si poteva allargare. Infatti prima era più difficile produrre un brano, per esempio Fabio sa che per produrre un disco era, cioè, devi andare in studio, queste cose qua, devi spendere un sacco di soldi. Invece adesso, e quindi se spendi i soldi ti aspetti comunque di vendere un brano, cioè sicuramente di non metterlo a gratis, ecco. Vabbè, certo, quello comunque è un investimento. È un investimento, certo. Che quindi vuoi almeno un minimo di ritorno anche per anche, diciamo, se poi suoni gratis, dici, se mi dai una cinquantella in pratica qualcosa mi rientra. Io mi ricordo negli anni 2000, io mi ricordo che negli anni 2000 me lo aveva detto il DJ del Roncaccio. Sì, diciamo. Fabio. Fabio, esatto. Sì, ciao. Salutiamo, no, Fabio. Ciao Fabio. Fabio. E Massimiliano. Vabbè. Massimiliano. Ciao Massimiliano. Ti saluto tanto. E come si chiama? Non lo so. Guadagnavi 50 centesimi a copia venduta. Ce l'ho fatta a non dirlo. Sì, perché la SIAE o chi per esso ti permetteva di guadagnare dei soldi per ogni passaggio. Ti permette ancora tutt'oggi. Tramite effettivamente con le net label questo discorso non c'è. Quanto costa avere una net label? Ecco, il costo della net label magari ne parliamo un'altra volta. Perché ho conosciuto anche una persona che volevo salutare, che si chiama Eldino, che ha un blog. E Eldino aveva un blog addirittura forse su... Il cagnolino di... Il cagnolino, dinosauro. No, non Dino, El Dino. Vabbè, spagnolo. In spagnolo è il Dino, spagnolo. Vabbè. È il Freestone. È il Freestone con la S finale. No, lui è, secondo me, penso il maggiore esperto in Italia di concetti di, diciamo, musica gratuita cultura della musica gratuita. Lui Emule. No, scherzo. Salutiamo il Dino. Ho trovato veramente molte informazioni. Magari questa domanda qua potremmo fargliela a lui, perché aveva fatto proprio dei tutorial su come aprire una net label. Quindi perché il mulo era anche per le canzoni. No. La battuta. Il mulo è, diciamo, che era un amico, così dico, quando stavi al computer magari ti teneva compagnia. Io invece mi è capitato più volte di non trovare quello che avevo scaricato. Vediamo qua gente che... Però io mi ricorderò sempre dopo, che un amico mi fa, è uscito il film Le memorie di una geisha, una palla che non me ne è capito. Ma invece di scare quello, le memorie erano più una... ecco. Comunque... E l'hai guardato fino alla fine? È successo anche a me. Quello è cultura, un documentario, ragazzi. Cioè, io sono una persona che si informa, che deve andare a fondo alle cose, no? Comunque, giusto per concludere il discorso sulle net label, dicevo, non hanno, magari non hanno una qualità maggiore, a meno che non c'è una delle etichette che hanno una ricerca più musicale più estesa, come quelle che magari alcune volte andiamo a passare, no? Che fanno, che, non è che producono tutto il formato di media in MP3. In MP3, no, in realtà fanno, ce ne sono, sì, alcuni anche che producono in Wave, però loro hanno anche molto più da guadagnarci con gli eventi, con altre cose. Perché infatti, no? Io avevo una curiosità. È una parte molto difficile anche organizzare in Italia. Infatti, sì. Infatti. Volevo chiedere. Sì, perché alla fine il disco è un biglietto da visita alla fine. Sì, giusto, vai. Volevo chiedere, ma quali sono i requisiti per aprire una net label? No, niente, la voglia, la voglia di fare, punto. La voglia di mettersi un po' in gioco e non di produrre. Non ci sono licenze. Non ci sono licenze. Quando comincia a girare il grano, che poi cominciano a mettere i paletti. Ti devono dare. Perché funziona sempre così. No, a parte il grano, a parte la questione del grano, ti devono riconoscere un po' per, come si dice, il... lo stato sociale, diciamo. Bravissimo, ecco, proprio quello. Ma solo in Italia o all'estero? No, anche all'estero. Anche all'estero, molto diffusa in Europa questa pratica delle net label, ho visto, molto diffusa. Sì, ma dico, magari in Italia ti fanno pagare una tassa che magari all'estero non c'è. No, nessuna tassa, fortunatamente nessuna tassa. Non ditelo in giro. Non raccontiamola troppo, che se ascoltano domani c'è subito la tassa. Sì. Va bene, dai. Ok, mettiamo un pezzo. Sì, mettiamo un pezzo. Dai. E dopo tutta questa filippica vogliamo ascoltare la canzone. Andiamo a mettere un pezzo di un'etichetta italiana, che è Efedrina Net Label, di un altro ragazzo che conosciuto, che forse riusciremo a intervistare prima o poi, perché abbiamo avuto un po' di problemi iniziali, ma forse riusciamo ad averlo tra di noi. Thank you. E direttamente dalla lavatrice di Fabio abbiamo ascoltato questo brano, vero? Sì, come suggeriva Diego, no? Sembrava molto il rumore della lavatrice quando fa la centrifuga. In realtà il brano è di Hypercube Vascular Telemetry. Però non è male, a me non dispiace il brano, però effettivamente è un po' ibrano. No, però mi è venuto in mente che adesso quando vado a casa, io ho una situazione tragica a casa, cioè ho i panni che ormai stanno invadendo casa. Prima sono tornato, ho aperto il bagno, apro il bagno e c'era la cesta piena. E pensa che le mutande mi dicevano: guarda che siamo qua da lunedì. E ho detto: urca! Non è un bello spettacolo. Quelle che ti ricordi di lunedì, perché poi le altre non si sa di quanti giorni sono. No, magari... Sì. Perché non hai visto i piatti allora, Fabio... Fai parte della Madonna sui piatti. Fabio, magari hai... Le hai risate più volte? No, quello no, dai, su quello no. Hai girato al contrario, di la verità. Lui gira tutto al contrario. Cribio. Va bene, dai, comunque, un po' alle... Guarda che il single, cioè, ha una vita difficile in casa. Tu hai è come una lotta in casa, no? Sì, perché tu hai i piatti, e la lavatrice, e il pavimento, e quello. Al terzo giorno si rotto le balle e dici: oh, cagare, quello che faccio. E lì poi comincia a prendere vita. Qui c'è la biomateria, no? Io potrei fare una puntata di biomateria su casa mia, no? Nel parquet sta cominciando a nascere le piante. Cresce il grano. È vero, lunedì passo con la tagliaerba, cioè, sicuro ragazzi. Poi te la fumi. Ecco, sì, questo è il momento effettivamente quark di Fabio. Qua ci voleva. Adesso chiediamo all'altro Fabio. Settimana prossima vogliamo la sigla di Super Quark. Ma guarda che l'ha messa. È questa? Ah, ok. No, spiego. Siccome io sono da questa parte, le mie cuffie sono di là, quindi sto andando a braccio. Ma quello che dici lo senti anche così. Sì, ma non sento le sue... Sente le basi. Le basi. Cioè, Super Quark, senti, non me ne accorgo. Ma vedi, se tu non senti, vedi, c'è Super Quark, vero? Ma io voglio accendere uno schermo con la... Diciamo così, Tony, noi che siamo vecchi, noi che siamo vecchi, abbiamo problemi di udito, lavoriamo senza cuffie. Va bene, detto, diciamo, questa serie... Questa deve essere una puntata, come dire, seria. Svolta. Ragazzi, fin quando ci sono io, la serietà scappa. No, ma dico in generale. Cioè. In generale, bravo, in generale. Nessuno si è tirato indietro. Andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi, perché poi dopo mi sa che... Non so se ci sono saluti. Dopo il programma successivo ci sarà o non ci sarà. Oggi è il 23, dunque saremo ancora a novembre. Sì, sì. Tra l'altro vi comunico, perché io sono in contatto con la nostra social media manager in France, che è Katia. Salutiamo Katia. Katia. Che ha caricato una nuova stories orribile con me soggetto, vabbè, non me lo dovrei dire, però vabbè. Sottinteso, sì. Era una foto orribile, però va bene. La stories è carina, dai, andatelo pure a vedere. E andiamo ad ascoltare l'ultimo brano di oggi da un'altra net label strana. Oggi ne ho tirate fuori di ogni. Infatti, nel podcast che caricheremo, abbiamo cambiato un po' i suoni. Beh, qualcosa provato, qualcosa bello, qualcosa un po' meno. Vabbè, magari per le prossime puntate. È un'esplorazione. Alla fine è un viaggio, sì. Un'esplorazione. Andiamo ad ascoltare il brano di FLV Share, ve lo dico così e non lo so dire in un altro modo, anche perché non sì, ha perché senso. Non si però è Look in the Mirror, questo sì. Guardarsi allo specchio. Thank you. E dai, siamo arrivati in fondo. Direi che siamo pronti per lanciare. Vai. La sigla! Sigla! Sigla! Viaggi del lupo. Fine. Io te l'ho detto di non tocca tuca no. Il mix te tocchi schiacci tastini. Messo come era tutto prima. Va bene, va bene. Tu di nuovo, non volevo dirlo. Vabbè, diciamo comunque. Che siamo arrivati alla fine. Abbiamo toccato il fondo. Siamo arrivati fino in fondo, ce l'abbiamo fatta. Volevo sapere se eri uno svizzero, perché siamo arrivati alla fine, sono le 22:00. Non è vero, non è vero. No, 21:01, 21:01. Adesso perché sto parlando, ragazzi. Allora sei tu che sei in ritardo. È stato preciso il domenico. Un pochettino sì, dai. È di lavoro. Siamo arrivati alla fine, ci siamo divertiti come tutte le sere, tutti i venerdì sera. Sì. Ringraziamenti vari se qualcuno ha da fare. Sì, salutiamo i ragazzi di Biomaterra che ci torneranno. Allora, ricordiamo i loro nomi. Sì, vai. Dai, alzatevi in piedi e presentatevi. Pure, no, dai, poverina. Ragazzi, tutti insieme in ordine di altezza. Venite qua, su, facciamo la super puntata tutti insieme, dai. Chiudiamo tutti, su. Ciao da Sara. Ciao da Benedetta. E ciao da Marco. Ok, ok. Ciao ragazzi, tornate a trovarci. Va bene, grazie mille per averci ascoltato e prossimamente saremo di nuovo qui su Radio Lupo Solitario. E seguiteci sui nostri social network. È fotografato o no, eh? Chissà se sei riuscito a fare una foto decente. No, una sì. Credo. Va bene. C'è una presenza inquietante qua dietro. Ma veramente... veramente... Va comunque bene. Io ho fame, non l'ho ancora detto stasera. Vabbè, adesso andiamo. Beati voi, che devo andare a lavorare, porca miseria. Praticamente ancora fame. Sì, è vero. E niente, stai dicendo Fabio, scusami? Ormai mi sono dimenticato. Io ero partito bello, gasato, facciamo la finale di chiusura e poi che praticamente ma chiuso il quid, come dico io. E adesso io vi saluto e ce ne andiamo a casa. Ciao. Va bene, non va bene. Non devi salutare nessuno. No, salutiamo, ci salutiamo. Dai, noi saluta stessi. Saluta la farmacista, Fabio. Ah, no, vero. Allora, saluto le ultime donne che ho visto di questa settimana, la farmacista del Carrefour, ciao farmacista. Non so il nome, ragazzi. Ah, ho capito. Subito quando diciamo, tutti conoscono la farmacista del Carrefour. Madonna. Vabbè, comunque settimana prossima ne salutiamo un'altra. Va io bene, una va settimana bene. Devo salutare. Va bene, va bene. Vabbè, noi vi salutiamo dal tutto lo staff di Wolf Trip. Ciao ragazzi. Salutiamo Katia che è a casa, poi salutiamo ciao, il nostro pubblico non pagante. Salutiamo la Sabri. Sabrina, Debora e Diego. Che poi dopo potete riascoltare anche le sue puntate come le nostre in podcast su Spotify, iTunes, Spreaker, dove volete, insomma. Ma anche sì. Sulle tavole di Mosè. Sì, sì, sì, anche la tavola della legge. Bellissima puntata, poi non c'è più. Praticamente sei come il prezzemolo. Ovunque. Come il calcio sui maccheroni. Noi ci risentiamo settimana prossima. Devo guardare sulla mia bella agendina chi è che c'è. Sabri, ma dove l'hai trovato? Nel Dixon. No, settimana prossima avremo un gruppo che fa musica live con i vinili, che si chiamano bello. I bellissimi dischi di Ornavasso. Loro si chiamano proprio così come gruppo. Bello. E non so però se verranno qui o faremo un'intervista telefonica. È un bel progetto. Andrebbero sarebbero ad andare a prendere a Ornavasso. Così lontano. E non è neanche tanto vicino, dai, vediamo un po'. Ma sì, due passi, che sia. Va bene, noi ci sentiamo settimana prossima. Praticamente abbiamo finito la puntata. Abbiamo finito. Saluti a tutti. Saluti e baci. Ciao. Baci, ciao. Ciao.